GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Un colpo di testa di Cruz firma la vittoria dell'Inter a Torino e avvicina i nerazzurri allo scudetto. A 4 giornate dalla fine sono ora 6 punti di vantaggio sulla Roma, che solo fra 4 mesi recupererà Totti, operato ieri al ginocchio, infortunato col Livorno. Intanto l'1-0 contro il Granata lancia l'Inter verso il tricolore. Stankovic a Sky Sport. Siamo sulla buona strada, questa era importantissima, era partita che valeva tanto. Ci possiamo permettere qualche passo sbagliato, ma con questa grinta penso che essere concentrati, lottare fino alla fine, arriviamo tranquilli. Protagonista di giornata, un grande Alex Del Piero, che con 3 reti trascina la Juventus al 4-0 di Bergamo sull'Atalanta. La soddisfazione di Claudio Ranieri. Ottimi campioni che stanno facendo una grandissima annata. Giochiamo per fargli fare gol, alcune volte ci riusciamo, altre meno. Però appunto, quando hai questi grossi campioni in forma, è importante perché ti possono aprire la strada per la vittoria, come è stata fatta oggi. 3 gol, 2 sul rigore anche per un Renato Kakà nel 5-1 del Milan sulla Regina. Ancelotti continua a credere nella qualificazione alla Champions. Il nostro obiettivo è quello, naturalmente prepararle una per una, cercare di vincerle tutte per poi sperare in qualche passo falso. L'assenza di Kakà ha pesato nelle partite che sono state poi dopo decisive, che hanno determinato questo distacco. È naturale che fosse così. E adesso sta ritrovando la condizione migliore e sta risultando determinante. Ma in corsa per l'Europa che conta c'è anche la Sampdoria, che travolge 3-0 l'Udinese con un gol di Cassano e una doppietta di Bellucci, un gol sul rigore. Nella giornata dei tanti errori arbitrali e delle tante espulsioni, 11 giocatori più 2 tecnici, i fischi di Airoldi condizionano il successo del Napoli a Parma per 2-1. Il tecnico partenopeo Reia espulso. Niente, mi dispiace, perché questi episodi certamente non hanno niente a che fare con il calcio, ma d'altronde sai, una partita importante per noi e anche in modo particolare per il Parma, un po' di tensione c'era sicuramente, dovuto anche a quei 2 episodi del primo tempo sul discorso di rigore. Nella lotta a salvezza, importanti vittorie anche per Cagliari, 2-0 sull'Empoli, e Catania 1-0 sulla Lazio. Vittoria esterna anche per il Genoa a Siena, 1-0. Per il basket, nella penultima giornata della stagione regolare, vittoria per la capolista Siena, mentre Roma batte Pesaro e ritorna al secondo posto. KO Montegranaro e Avellino, superata in casa da Milano. Sentiamo proprio il milanese Di Bella. Io penso che una volta conquistati i playoff bisogna porsi degli altri obiettivi. Il nostro era quello di farci rispettare. È stata però un inizio di stagione Milano difficile e tutto. Siamo usciti da quella crisi, ci siamo affermati in una posizione in playoff e per avere rispetto bisogna vincere anche in campi difficili come Avellino. Successi anche per Treviso, Scafati, Udine, Varese e Fortitudo Bologna. Per la pallavolo è Pesaro-Perugia la finale del torneo femminile. In gara 3 delle semifinali le Umbre hanno battuto 3-2 Bergamo in trasferta. Tra gli uomini, gara 1 delle semifinali va a Trento, 3-0 su Roma, e Cuneo, 3-2 su Piacenza. Chiudiamo col ciclismo, bella impresa di Damiano Cunego, che alla prima partecipazione ha trionfato nell'Amstel Gold Race, grande classica del nord, battuto in volata il lussemburghese Schleck. Credo che quel momento lì, quando ho tagliato il traguardo, ho espresso tutta la mia felicità. Veramente ci voleva per me, per tutti, per la squadra, per il team, è una vittoria importante. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport dalle 14, ancora una buona giornata da Dario Ricci.